lo dico anche qua, ciao Natalino. Ciao Natalino. Io vado avanti, mi allungo un pochino, così arrivo alla fine della galleria. Ok, campa. Vai, se c'è bisogno passo avanti anch'io, se c'è delle macchine che arrivano. Non c'è bisogno, tanto se non arrivano camion, adesso vado alla fine della, semmai rallenta un pochino Daniele, vado alla fine della galleria e ti dico io se arrivano macchine o i camion li blocco, le macchine le faccio venire. Sì, siamo vicini.